L'allarme diossina nelle mozzarelle di bufala campane è limitato e contenuto. I cittadini non devono farsi prendere dalla stessa psicosi che li colpì ai tempi dell'aviaria. È il monito del sottosegretario alla salute Giampaolo Patta, che invita ad evitare allarmismi infondati. La mozzarella è sostanzialmente un prodotto sano, molto controllato, e la stragrande maggioranza del prodotto è assolutamente indenne. Patta non nega però che si sono riscontrati casi di positività alla diossina. In Campania sono stati sequestrati 83 allevamenti e i controlli hanno rilevato quantità di diossina moderatamente superiore ai limiti consentiti in 25 caseifici su 130 monitorati. La situazione è sotto controllo, assicura il Ministero della Salute, che garantisce entro 48 ore risponderemo alle richieste della Commissione Europea e a tutti gli stati preoccupati per la situazione. Daremo tutte le assicurazioni e risponderemo positivamente a tutte le richieste che ci stanno pervenendo in questo momento da alcuni stati, la Corea, il Giappone, altri stati preoccupati dalla situazione, non stanno mettendo sotto accusa il sistema Italia, ma vogliono semplicemente sapere quali sono le aziende coinvolte. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.